sei io la stappo, bianco, io la stappo, rosso e basta. Oh, dai. Cristo, quanti moralisti quest'anno in giro ho visto. E a volte cantano in rima proprio come il sottoscritto. È segno tristo, e allora li contesto su disco, con sto testo dedicato alla bevanda che preferisco. Nettare degli dei, ma pure dei plebei. Stasera sarò il vostro Wine J. E men che non si dica un brindisi alla vita, vi proporrei con AND, niente IGT. Si parte come livello base dal DOCG. Cin cin, specialmente alla salute di chi ci è incredibilmente seguiti fino a qui. Dai, porta in tavola quel nero d'avola e fatti trasportare in un mondo da favola. E puoi girare come se fossi una bambola. E quando la tua vescica sarà ormai satura, potrai evitare di pensare a tutte le porcate che sto governo instaura. Chianti, Zipipo, Pino, Barbera e Badolino, Rosso, Piceno, Cino, Moscato e Fragolino, Tocai, Trepiano, Verdicchio, Müller, Turgau, Montepulciano, Brunello e Cannonau. Chianti, Zipipo, Pino, Barbera e Badolino, Rosso, Piceno, Cino, Moscato e Fragolino, Tocai, Trepiano, Verdicchio, Müller, Turgau, Montepulciano, Brunello e Cannonau. Vesto nero, esco di notte e bevo rosso. Non sono Dracula il vampiro, ma non posso fare a meno del tozzetto, del cicchetto, del suo effetto è il mio vizietto in vino. Verità si sai, allora ecco qua il rimedio per bugie e per falsità di politici e babbioni, di intralazzatori. Diamogli una dose di buon vino e vediamo che esce fuori. Calici e rime senza fine, baci in bocca alla boccia e Dolby all'orgia sublime. Sono della vecchia scuola, sughero e vetro a cartoni ai tappi di plastica. Non credo e non metterti in cammino se in bocca non hai vino, è il consiglio che mi dava mio nonno da bambino. E ora fatti contagiare e trascinare nella bolgia chi non beve con me, peste lo colga. Chianti, Zipipo, Pino, Barbera e Bardolino, Rosso, Piceno, Ciro, Moscato e Fragolino, Tocai, Trebbiano, Verdicchio, Müller, Turgau, Montepulciano, Brunello e Cannonau. Chianti, Zipipo, Pino, Barbera e Bardolino, Rosso, Piceno, Ciro, Moscato e Fragolino, Tocai, Trebbiano, Verdicchio, Müller, Turgau, Montepulciano, Brunello e Cannonau. Ho studiato da sommelier, sono impreparato, vado là così com'è. Se prendo 21 non rifiuto e va più che beh. Stasera mi collasso senza mai, senza se. E non mi dare spago, non chiedermi perché. Potrei risponderti solamente per piacere, che io coerentemente antepongo sempre al dovere. Riempi il bicchiere, il mio parere è che queste sere sono tutt'altro che nere. Niente notte di potere, quando sto fresco riesco pure a parlare con i lupi come San Francesco. Ed è un processo di controdigestione quello che innesco. Se il fatturato di tutti i bar dell'isolato io lo accresco, faccio il macello e rischio di andare al fresco. Però alla peggio offro da bere a tutti e a tutte appena esco. Chianti, Zipipo, Pino, Barbera e Bardolino, Rosso, Piceno, Cino, Moscato e Fragolino, Tocai, Trebbiano, Verdicchio, Müller, Turgau, Montepulciano, Brunello e Cannonau. Chianti, Zipipo, Pino, Barbera e Bardolino, Rosso, Piceno, Cino, Moscato e Fragolino, Tocai, Trebbiano, Verdicchio, Müller, Turgau, Montepulciano, Brunello e Cannonau. Chianti, Zipipo, Pino, Barbera e Bardolino, Rosso, Piceno, Cino, Moscato e Fragolino, Tocai, Trebbiano, Verdicchio, Müller, Turgau, Montepulciano, Brunello e Cannonau. Chianti, Zipipo, Pino, Barbera e Bardolino, Rosso, Piceno, Ciro, Moscato e Fragolino, Tocai, Trebbiano, Verdicchio e Müller, Turgau, Montepulciano, Brunello e Cannonau.